Bella. Bella. Ciao Gio, diamo un bello. Buonasera. Fatto. Anche questa l'abbiamo fatta. Sì. Puntata di oggi natalizia. Peperlizia. Chiamiamola così. Tra l'altro siamo qua tutti e due un po' azzoppati perché siamo tutti e due sulla veneranda età di 28, 29, quasi 30 anni e fumarci le canne. E fumarci le canne al pomeriggio non ci abbiamo più fisico, quindi se ci sentite un po' ritardati, probabilmente è proprio questo il motivo. Sta passando qualche legge, qualche novità si sta muovendo in questo mondo. Speriamo che l'anno prossimo sotto all'albero di Natale troveremo delle bellissime infiorescenze profumate e non il solito libro di Bruno Vespa di cui sinceramente ci siamo tutti un po' rotti i coglioni. Grande, Vespone l'immortale. Grande, grande, grande. Comunque non so se tu l'hai visto, come si chiama il suo ultimo libro? Il Duce, tipo? Sì, cioè, c'è la faccia del Duce, okay, di fronte, ma si chiama tipo... Il Duce ha fatto anche cose buone, ma perché Draghi può fare anche di meglio? O una cosa, okay, del genere. Perfetto. Cioè proprio sincero e democratico. Sincero e democratico. Vabbè, temi natalizi. A me è venuto in mente oggi una cosa di cui secondo me meriterebbe parlare, che è Carlo Vanzina, i fratelli Vanzina. Ok. Prima l'hai lanciato così per aria, io non lo dicevo. Tu li hai mai visti quelle cose? Hai detto a un certo punto parlavamo di tutto. Hai detto Vanzina, questa cosa voleva dire. Cosa dire. Tu li hai mai visti? No. Neanche uno? No. E hai mai avuto quella perversione per cui... No, perché tu non hai quella perversione. Qual è quella perversione? È quella di guardare la merda per vedere se puzza per davvero, diciamo. Ah, no. Non ce l'ho così. Così spiccata. Credo così spiccata come la tua. È una qualità che purtroppo mi manca. Allora, Però cos'è esattamente? Io non ne sapevo niente. Dai, tipo Natale a Miami, Natale a New York, okay, Natale... Okay, okay. Bolde di Sica, tutti quei grandi... Certo. Quei masterpiece. No, cioè, devo dire che ho smesso con la maggiore età. Con la maggiore età? Sì. Ok, però sei andato a vederli al cinema? No. O avevi tipo i genitori che facevano un po' lo stesso gioco che facevano con Dragon Ball, che non si guardano le cose giapponesi, non si guardano i fanzine, noi siamo comunisti e queste cose... Prendi Lego e non rompere i coglioni. Allora, sta cosa con i film giapponesi, con i cartoni giapponesi ce l'avevano. Ce l'avevano. Sì, ma con Dragon Ball si sono arresi. Ok. Holly e Benji è stato il Grimaldello o è stato Dragon Ball? No, penso siano state le ore spese davanti allo schermo. Ok, ok. Ineluttabili ore spese. Anche perché quando vedevi tutti quanti che tu eri l'unico fagiolo che si leggeva, come me, che si leggeva Harry Potter, tu eri l'unico stronzo che non ha nessuno con cui parlare di Harry Potter e tutti che dicevano, sì, ieri hai visto, ha ammazzato Sella, gli ha squartato la faccia e tu dici, io ho visto Harry Potter, Wingardium Leviosa. Il mondo fantasy è mondo sempre fantasy. Quello. E... Abbiamo perso il filo? Abbiamo perso il filo. I fratelli Vanzina. No, devo dire, ho visto i primi due, tipo, perché ero un pischello. Quello ti ricordi? Natale sul Nilo. Vabbè, poi c'è la canzone Natale a Cortina. Però quello è quasi ascrivibile a classico. Certo, in un certo. Cioè, di quel genere lì possiamo dire che è stato un po'. Solo perché il remake è sempre più brutto e il terzo è ancora più brutto e la seconda trilogia è ancora peggio. Però loro ne hanno fatti una decina, credo. Cioè... Più o meno arriviamo. Che poi la cosa incredibile è stata che, non so se ti sei ascoltato un podcast che fa molti meno ascoltatori di noi, è impossibile, che si chiama Kashmir Podcast, dove hanno invitato Vanzina, e sentendolo parlare in realtà è una persona con, cioè, tu certo, dici, come hai fatto a produrre quella merda se hai questo cervello? Anni di studio. Esatto, okay, esatto. Sapevo che volevi. E però era interessante perché c'è stato per me, non so se è lo stesso processo per cui adesso sto rivalutando un po' Berlusconi, però mi è successa questa stessa cosa. Perché è un grande statista. Esatto. Per quello. Perché solo un grande uomo riesce a unire mignotte, colpi di Stato e insomma delle riforme fiscali tutto sommato deludenti. E io ne ho visto solo uno e quindi in realtà vorrei... Uno solo, ma io ho visto solo Natale a New York. Matematicamente... Ho visto solo Natale a New York. Avevo genitori così comunisti che... E l'ho visto al cinema... Di nascosto. Sì. Però quelli erano i grandi anni di... Però è interessante perché lì poi c'era tutto un vocabolario che adesso quasi non potresti più usare. Cosa, esempio? Allora, non mi viene in quale cazzo di Natale sia, perché qua ci stiamo avvicinando al complotto di Biancaneve, remake Disney. Esatto, okay. O Superman bisex o quelle cose lì. Ma che c'è quella scena, non so se sia nata la cortina, che De Sica è gay, credo. Non so se è nata la cortina o quale è nata la Courmayeur o a St. Moritz, ma come si dice? E c'è lui che tipo usa in maniera offensiva. No, però spesso e volentieri dà del frocio alle persone. Cosa che se tu ci pensi adesso, prova a farlo adesso, no? Non so, credo che la tua carriera sarebbe finita, no? Cioè non hai un po' questa cosa per cui alla fine una parola. Non lo so, dici che non potrà mai più esistere un film in cui si dice frocio. Non lo so, secondo me non con quel modo lì. Cioè, non era proprio un bel modo, non so, ci mancherebbe che. Però trovate interessante che c'è tutto un lessico degli anni 80-90. Ah, un po' come dire, non so. Sì, che non puoi più scrivere un libro sul duce. Sì. Come aveva fatto Vespa. Che, esatto, e poi avere il segretario del principale partito di sinistra italiano che viene a promuoverlo, se no è un parte più robusto. Ma parliamo anche dell'altro grande. Ma poi perché si chiama Duce? Come si fa uno a chiamare? Zio, come l'altro che si chiama Führer. C'avevamo bisogno. Cioè non si poteva chiamare Cesare perché la gente non l'aveva preso seriamente. Augusto anche l'aveva già usato. Quindi adesso. Il vocabolario è ristretto. Dunque. Esatto. Dunque, aspetta, dunque Duce, suona bene. E è un cazzo, e quindi questa cosa qua. Che tra l'altro c'è tutto un complotto, non so se ti sei ascoltato l'ultimo CD di Marrakesh. No, dopo i primi 10 secondi ho dovuto interrompere. Ti sei dovuto interrompere, ok, va bene. Però ti consiglio di ascoltare gli ultimi 10 secondi di una canzone, quindi si può fare. Il doppio del tempo che ho ascoltato finora. Che è, attenzione perché qua abbiamo un complottaro che sta arrivando prepotente con delle chiavi che tintinnano. Diamo un sonorissimo benvenuto. Allo! si sente. Ottimo. Come va? Alla grande, ragazzi, voi? Bene. Ci racconti la tua cena natalizia? Cena natalizia? Sì. Quale? Quella di ieri, a questo punto. Aglia. Allora. Una di quelle cene che si fanno sotto Natale. Sì, no, una bella cena. Gli argomenti trattati erano un po' diversi da quelli delle solite cene natalizie. Che probabilmente non c'era quella cosa che si fa di solito a cena natalizia. Non parlate di politica, porco zio. Esatto. E niente, abbiamo parlato di tutta questa situazione assurda che stiamo vivendo tutti da un paio d'anni. Esatto, ormai. Quanto fa brutto dire che adesso sono 2 anni? È brutto, cioè particolare. È come quando ti dici, non lo so, come quando segni i giorni su un muro scalpellando tracci le righe. A me è successo quando ho fatto l'amore con una ragazza che aveva 21 anni. A quel punto mi sono reso conto che era del 2000, che io avevo 30 anni. Ho detto 9 anni di differenza. Porca paletta. È stato veramente un vedere il numero, non so come dire. Fischia. Certe volte tipo no. Non guardare o pensarci. Esatto. Può aiutare. Sì, perché tu dici, tanto sono ancora quell'allegro 25enne di una volta, poi in realtà questo, esatto, non è vero. Io dico sempre di avere 17 anni, secondo me questa cosa influisce anche su... Beh, ma te io ti crederei tutto sommato, no? Lo so, perché lo dico, e quindi più parli di una cosa, più ne parli specifichi, più questa... Eventualmente si avvera. Sicuramente se non dici... Non sai, esatto. Se dici, almeno l'hai detto, poi se lo scrivi pure. Tanto meglio. Se fai poi un film, basta. Certo. Mettiamo su un pezzone? Pezzaccio. Wow. Non ho ascoltato. Fare 4 salti in padella oppure ascoltare? Sì, facciamo 4 salti in padella. 4 salti in padella? È premium, quindi puoi andare. Spotify? Sì, sì. Ok, io sono vittima del sistema. E quindi c'è Apple Music? Apple Music. Aia. Allora. Ma tra l'altro parlavo oggi, sono andato al negozio, a proposito di complotti, sono andato al negozio della Wind per cambiare il mio piano tariffario, pagare 40 centesimi in più, ma questa è tutta un'altra storia. No, immaginavo che non fosse per un contratto a meno. No, perché quei figli della merda, quando io ero in Grecia, pagavo comunque le telefonate per l'Italia, cosa che non dovrebbe succedere. Fanno, ma perché il tuo è un vecchio contratto del 2017, no, adesso devi pagare 40 centesimi in più, facci due, quindi l'ho fatto. No, non dovevi accettare. Fotte cazzo, per 40 centesimi... Drippen. Non so, 4 salti in padella è qualcosa di carino che mi sta ascoltando in questo periodo. Drippen in Milano? No, Drippen, Tuscan. Sì. Tutte l'anno prossimo. Anche che le ordinate d'estate, qua prima dell'estate. Eh beh sì, che poi c'è tutta la componentistica interna, tutte quelle fregnacce lì. Ciao. Cioè comunque questa roba dell'energia, raga, è brutta. E non passerà. Devo riaccendere il microfono, no, se abbiamo lanciato così un argomento. Sì, vai. Non ho letto troppo, però lo vedo con la mia panda GPL. Che adesso non risponde più. Stavamo buttando il nuovo argomento che ci terrà tutti sulle spine e ci farà maledire la bolletta. Ma non solo. Che avete mai sentito qualcuno parlare che sta forse per arrivare una crisi? Una crisi. Ma è mai finita la crisi questa? No, è mai finita la crisi? No, vabbè. Può essere una buona domanda, ma a parte quello. Come diceva Silvio, i ristoranti sono ancora pieni, qua la crisi non c'è, non è arrivata. Grande. E comunque. No, stavamo parlando che appunto un'eventualità potrebbe essere un collasso economico globale o qualcosa di simile. Sì. Quindi tutti a comprare case, Bitcoin, oro, pasta non liscia, carta igienica. Se c'è qualcosa che abbiamo imparato è comprare la pasta e pulirsi il culo. Tutti pronti, riserve di zucchero come ai vecchi tempi, farina. Finiremo il lievito un'altra volta. Pannelli solari e via. Che la madre dell'aceto se la tenga tipo sotto il lucchetto. Però sì, cioè, secondo me sarà brutto. I prossimi mesi saranno brutti. Io mi aspetto che succeda il casino. C'è chi dice che tra poco richiudono tutto anche qua. E lo stiamo aspettando. Dove si andrà? No, ma non tanto sul Covid, per me è proprio questa roba dell'energia, dei trasporti, del tutto che sarà pesante, cioè ci saranno ripercussioni. Vabbè, tutto costa di più se costano di più i trasporti. Sì, e se costa di più quello, costa di più la materia prima, costa di più l'energia. Infatti avevo letto anche che tipo, l'Ilva è un caso a parte, però tutti i cementifici e le acciaierie hanno detto, raga, se questo è il costo dell'energia, ciao. Tutti i materiali di base, sì. Cioè. Perché siamo così abituati che l'energia costa poco che sì, accendi poi la l'unica lampadina. Cosa che loro possono fare come produttori è aumentare il costo del prodotto. Sì. E se poi nessun cantiere te lo compra più, nessun privato ti compra più quello, esatto. È una lunga catena, il triplo di un mese fa, esatto. Tutto costa tre volte tanto. Sì, ragazzi, io lo vedo, cioè, vabbè, io acquisto beni, ma anche il legno al brico mangiare tre volte tanto, forse l'hanno già detto, no. Me l'ho perso, cioè adesso costa tre volte tanto, no? Sì, tutti i materiali da costruzione al bricoman, ma sei serio? Certo, dove vanno tutti i professionisti. Sì, ma il bricoman ha i migliori prezzi sul mercato. Sì, cioè. Sì, ma un asse di legno autoclavata che due mesi fa costava 2 euro, ecco. Adesso costa 5,60. Zio caro. Un asse di legno, cioè. È assurdo. Però questa la capisco un po' meno, nel senso gli alberi sono quelli, quindi che gli devi fare? Cioè c'è tutto un processo per farla diventare autoclavata? Sì, no, l'autoclavata vuol dire messa in una specie di camera a pressione. Che fa? Con anche, proprio pressione atmosferica. Ah, ok. Con anche metalli e vapori che penetrano nel legno e la rendono più resistente. Completamente resistente sia a funghi, per esempio, muffe che corrodono piano piano. Tutti gli esserini che piano piano si mangiano il legno e lo fanno marcire. Questa me l'ero persa. Però dove un asse prima, cioè il processo a parte, perché se costava prima 2,80 euro vuol dire che secondo il processo può costare comunque sì. 2,80 euro. Sì, secondo me, cioè che loro vogliono mantenere lo stesso margine che vanno prima, se prima gli costava certo. No. Quando 2 euro e ci facevano, cioè se te la vendevano 2 euro a loro costava 50, no, la stessa zozzata. Sì, saranno tempi interessanti, come dicono i cinesi. Intanto qua in Exalge si sta preparando una fantastica cena. Ma infatti che cena c'è? È una bella cena con le candeline, per chi non può, sì, vedere, ci sono delle candeline. Fantastico. Tutto molto romantico. È tutto allestito e pronto per la cena by Interra, azienda agricola del nostro fantastico socio Rocco Enco. E a base di zafferano. Possiamo dirlo perché non ci ha pagato. Questa non è una marchetta, semplicemente che una pubblicità occulta. Esatto. Una sarà cena tutto a base di zafferano. Minchia, reggeria, no? Dal gin al dolce. Sì, sì. Guarda, sì, dietro di te. Ma sì, quello sì, è gin allo zafferano. È della Gordon o è? No, no, artesanale. Artesanale. O GNP in realtà. Buonasera. E menù? Menù vario. Vario ed eventuale. Lo vogliamo leggere? Ma sì, dai, diamo un po' di spolverata. Io ho visto delle bellissime sacchette di crema pasticcera. Ma poi c'è questo odorino di pane tostato. Questo è pane allo zafferano. Buono. C'è tutto stasera giallo. Tutto giallo? Tutto giallo. Tutto giallo. Un omaggio a Wuhan. Un omaggio al vino giallo. Madonna. Esatto, grazie per i mercati favolosi, esatto, i laboratori, armadilli, i laboratori finanziati. Avete mai sentito pochissimo parlare, però fanno ricerche molto giallo, importanti del mondo giallo? Sì, che la realtà in cui viviamo è gialla. Ah sì? Non avete mai sentito? No. Perché i Simpson era... sono gialli anche per questo. Ah sì? Questo è il complotto. Ah sì, questo è il complotto. Sì, 5 minuti. Infatti lo zafferano va a favore del team giallo che supporta che il mondo giallo. È giallo. Ma non sapevo sta cosa che il mondo giallo. Vabbè, e quindi il menù? Gin giallo. Gin giallo, crema pasticcera gialla, pane giallo, hamburger. Quindi si fa pane zuppato gialli nel gin. Sì, uova gialle, maionese. Maionese gialla. Zafferanosa, bello. Persone gialle. Persone gialle. Persone gialle. Per chi non può vedere. Non vedi? Qua è tutto, sì, sì, sì. Cioè, guarda, è tutto giallo. Siamo tutti, ci siamo gialli, trasformati tutti in personaggi dei Simpson. Esatto. Quindi epatiche. Esatto. Noi ci illudiamo di vivere in un mondo rosso. E quindi quando la cirrosi epatica in realtà sei blu. Esatto. La vera, esatto, verità è che sei blu. Esatto. Bene. Va bene, mettiamo su una musichina. Vai, così il nostro press è contento. Aspetta che andiamo. Little Sun. Falling. cacata sul Natale? Vai. Allora, sono pronto, non sono mai pronto. In che momento hai capito che Babbo Natale non esiste? Non lo so, non ho una memoria così potente. Potente. Ti dico io, quando ho trovato la PlayStation 2 nella stanza dei miei genitori, allora ho capito che forse questa verità che ci propinavano, il mainstream, non era quella vera. Forse se ce l'avessero raccontata fino in fondo ci avremmo creduto, ci crederemmo tuttora. Tuttora, esatto. Eppure a un certo punto si sono stufati e hanno iniziato a far intravedere i regali che sarebbero, esatto, arrivati a Natale qualche giorno prima, così che noi potessimo capire. Crescere, maturare, ma forse meglio così che una realtà edulcorata. E cosa mangi tu? Natale, lo festeggi il 24 sera o il 25 a pranzo? Tutte e due. Bravo, anch'io. È la tradizione, voglio. I regali li apri? Il 25 mattina. Bravo, a colazione. Esatto, a colazione. Minchia, che bello, una bella panettone. Fetta di panettone. Ah, porco zio, che bello essere tradizionalisti. Un litro e mezzo di latte. Esatto. Poi panettone, ti dirò la mia supporta. Mi domando a questo punto perché non ci siano i rubinetti con latte direttamente. Direttamente, sarebbe brillante. Attacchi le mucche da una parte. Cioè. Il panettone, tra l'altro, io sono un porco, nel senso che a me il panettone piace tostarlo. Urca. E poi spalmarci sopra una abbondante fetta di burro. Scandalo. Che si scioglie. Vabbè. Questa è proprio la zozzata che io adoro. Gastronomico. Gastronomica. E mi ricorda quasi uno scozzese che lo friggerebbe nel burro. Che lo friggerebbe nel burro. Lo potrei quasi comprendere, quasi lo perdonerei. E cosa mangi? Qual è il menù? Cioè c'è una roba che dici... Ma sai quella cosa che tipo il 24 puoi mangiare della cena di magro? Teoricamente sarebbe così. Ok, quindi solo pesce? Sì. Giusto? Penso di sì. Che c'è niente carne. Poi infatti 25... credo che una roba della tradizione era il capon magro, che era tipo tutto questo pesce lessato ricchissimo del 24, che ho mangiato una volta da piccolo, poi il ciaone. Okay. Poi c'è il 25, magari qualche cosa di Parma, che noi essendo un po' parmigiani, ci abbiamo l'anolino, il prosciutto. L'anolino è una specie di... È tipo l'agnolotto. L'agnolotto, tortelletto, okay. Tortellino. Si chiama come cazzo li vuoi. Brodo. Piccolo, però quel particolare è ripieno di... panettone. Carne. Ok. Stracotto. No. E la forma è tutta tonda, non è rigata, non è piegata, è solo sopra buona. Sotto così. Okay. In brodo di cappone. Buono. Spettacolo. Tu invece cosa te mangi? Io avevo una grande tradizione di mio padre che era, si metteva a fare il patè. Si metteva lui a fare proprio il patè di fegato. Ed era una roba che l'avresti usato come dentifricio, da quanto cazzo era buono. Buonissimo, con la granella di pistacchio sopra, ti faceva sta mattonella di un chilo e mezzo, buonissimo. E io mi cibavo quasi esclusivamente quello. Poi vabbè, a Natale per me è salmone, pistacchi. Non so perché, ma per me è proprio salmone e pistacchi, un grande classico. Da qualche tempo è diventato un grande classico anche l'insalata di rinforzo, che è questa cosa che fanno a Napoli, che praticamente prendi il cavolfiore, lo sbollenti e lo lasci un po' croccantiello, un po' di sottaceti e pappacelli, che sono questi pomodori, peperoni, uno strano ibrido. Comunque parlare di cibo alle 7:20 non ha senso. Sì, infatti sto per tornare a casa a mangiare. E baccalà. Ah, molto... veneziano, no. No, il baccalà è dentro questa insalata di rinforzo. Ed è molto molto interessante. Sbronza di Natale, 25 c'è? Ma... Modica. Ma una volta capito che andammo a giocare una di quelle partite da sbronzi in piazza Marengo dietro l'Anza, dovevo giocare 5 contro 5 alle 4 di mattina, tutti sbronzi ragazzi andiamo a casa. Dai che è Santo Stefano. Esatto, poi io prendo una cazzo di Enjoy, faccio 40 metri e si bucano due gomme. La notte di Natale 4 e mezzo, un freddo siderale. E io che chiamo l'assistenza, dico, oh, si è rotta la macchina. Dovevi dire, oh, sei anche tu a farti il Natale. Il Natale, esatto. A lavorare in bicicletta. Bruttissimo, veramente un'esperienza trucida. Sono arrivato, tra l'altro avevo vinto tipo la tombola, tre casse di bicchieri. bicchieri e qualche altro puttanaio, quindi a un certo punto, ma sai che c'è? Ho preso, ho spaccato tutti i bicchieri per terra, me ne sono andato, perché trasportateli tu per 6 km a piedi fino a casa, tutta sto pacco di merda. Il regalo di Natale. Regalo di Natale. Me lo ricordo ancora, l'ho spaccato davanti alla caserma dei pompieri di Venezia. E quindi giochi? Ti fai la tombola? La facevamo di tradizione al saloon in via Niccolini. Che facevamo? Sì, avevamo questa tradizione. Poi in realtà io sono andato a fare il Natale in Toscana dei miei e lì è un po' finito tutto. Quindi è un po' finito tutto. Vabbè, io non so, aprirei tipo il contest di chi si tiene l'accendino più a lungo nella sua vita. Sì. Penso che il Guinness World Record adesso sia di 10 anni. 10 anni, Francesco, tanta stima. Domani? Domani. 10 anni domani? Non lo so se è domani, ma... Sì. Cioè, comunque, a parte il fatto che se spendi 50 euro su un accendino, se tu fai un conto, ti è durato 10 anni, ci hai guadagnato. Ciao. Però ci hai guadagnato. Sei ricco praticamente. Però se ci pensi, perché quanti... con tutti i soldi che non hai buttato in accendini, cioè 5 euro all'anno di accendini tu li spendi. Io no. Poi, no, sì. Ma esatto. Spendi anche un non fumatore. Esatto. Esatto. Quindi se tu fai un conto, in realtà quasi che ci sta guadagnando lui. Certo. Cosa che ha fatto bene. Si sposeranno a breve. Si sposeranno a breve. Gli auguriamo una vita piena di sigarette, felicità. Va bene. Va bene. Non auguriamoci buon Natale. No, cioè, non ce l'auguriamo. Auguri a tutti però. Ciao.